Radio Doc, in collaborazione con History Channel. Buonasera e ben ritrovati a Radio Doc. Questa sera vi proponiamo, in collaborazione con History Channel, un radiodocumentario prodotto da AETN dedicato alla storia del grano, un cereale che sfama milioni di persone e il secondo più coltivato al mondo dopo il mais. Da anni, la famiglia Meisener, insieme ad altre 700 famiglie, miete metà del terreno agricolo degli Stati Uniti. Dal pane alla birra, dalla pasta alla plastica, un viaggio dai campi alle nostre tavole che inizia dalla mietitura. Vi segnaliamo che la versione integrale del documentario che state per ascoltare andrà in onda su History Channel lunedì 14 settembre alle 6. La spiga del grano contiene i chicchi, o grani, che sono l'unica parte utilizzata a fini commestibili. La maggior parte del raccolto è costituita da grano vermino rosso, che diventerà il nutrimento vitale, il pane. Il raccolto comincia in Texas ogni maggio e finisce in Canada a settembre. Per quell'epoca, la sola famiglia Meisener avrà raccolto più di 1 milione di bushel, quantità sufficiente a sfamare 500.000 di persone per un anno. Ron Meisener, mietitore a Cottimo. È un'attività familiare. Quando ho cominciato con mia moglie avevo 2 soli mezzi e lei ne guidava uno. Abbiamo 6 figli, 4 femmine e 2 maschi, tutti cresciuti nell'abitacolo di una mietitrice. Ora possiedono 5 macchine agricole, un equipaggiamento e una manodopera che pochi possono permettersi. I mietitori a Cottimo sono l'asso nella manica di coloro che azzardano la scommessa. Questi professionisti e le loro macchine agricole esistono da più di un secolo, ma l'attività ha preso piede dagli anni 40. Ma molti si sono rivelati frettolosi e disonesti. I fattori li chiamavano gli zingari del raccolto. La cattiva fama resistette fino agli anni 60, quando questa professione acquistò prestigio. Oggi i mietitori a Cottimo sono i soldati di ventura del raccolto del grano. Riescono a mietere 100 acri al giorno per ciascuna macchina. Emma Meisener sta al volante di una mietitrebbia dall'età di 10 anni. La prima volta che ci si mette al volante, se non lo si è mai fatto prima, si è molto nervosi. Bisogna stare attenti a molte cose, ma alla fine è divertente. È come rasare il prato con una falciatrice da 9 metri. A quale ragazza non piacerebbe guidare una mietitrebbia? Questi mezzi da 9 metri e 13 tonnellate di peso si spostano sul campo, mentre un cilindro rotante spinge il grano in una barra falciante affilatissima che taglia i culmi. Una volta tagliate, una verrina spinge le spighe nel cassone, posto all'interno della macchina, dove il chicco è separato dalla spiga. L'enorme forza di un cilindro che ruota su un supporto concavo a 960 giri al minuto strappa il chicco dalla spiga. Questo processo è chiamato trebbiatura. I chicchi cadono attraverso una grata del supporto concavo in un sistema di pulitura e poi vengono stivati nel cassone. Ogni cassone contiene 300 bushel di grano e ogni mietitrebbia va scaricata almeno ogni 30 minuti. Gli autotrasportatori fanno avanti e indietro con il deposito molte volte al giorno. Se i camion si fermano, l'attività sui campi va in stallo. Ancora Ron Meisener. Questo lavoro non ha orari d'ufficio. Lavoriamo 24 ore al giorno senza riposo. A volte ho lavorato tutta la notte perché stava per arrivare una tempesta il mattino dopo e dovevamo mietere prima che piovesse. Di solito ci accampiamo nelle proprietà. Abbiamo 3 roulotte. In una c'è la cucina. Mia moglie è una cuoca fantastica. Sa preparare tutto quello che si può cuocere su un grill, qualsiasi cosa la sa cucinare. Poi abbiamo una roulotte dove dormono tutti i nostri lavoratori. Le carovane di mietitrebbia fanno parte del panorama dei Great Plains. Ma fino a 200 anni fa, per la mietitura, i fattori potevano solo contare sul lavoro manuale. Il grano veniva tagliato a mano con l'aiuto di un particolare utensile, chiamato falce. Ma i muscoli non possono competere con le macchine. Se un agricoltore e la sua falce potevano mietere 1 ettaro al giorno, le moderne mietitrebbia mietono 1 ettaro in meno di 12 minuti. In soli 9 secondi, una mietitrebbia taglia abbastanza grano per fare 70 filoni di pane. E il mondo chiede molto pane. Dopo il mais, il grano è il secondo cereale più coltivato al mondo. Bob Bowden, agronomo del grano. Il grano cresce praticamente dappertutto e nei periodi stabiliti viene mietuto in ogni parte del mondo. Più di 25 milioni di ettari di grano vengono mietuti ogni anno negli Stati Uniti. Tra i 42 stati in cui si coltiva il grano, il Kansas occupa il primo posto. Un quinto di tutto il grano prodotto negli Stati Uniti viene dal Kansas. Il North Dakota lo segue da vicino. La Cina produce più di 90 milioni di tonnellate di grano all'anno e l'India 70 milioni di tonnellate. Gli Stati Uniti ne producono 60 milioni, classificandosi al terzo posto, seguiti da Russia, Francia e Canada. Anche così, gli Stati Uniti sono i primi esportatori. Ogni anno il 50% del raccolto viene esportato. Il porto di Portland, in Oregon, esporta la più grande quantità di grano degli Stati Uniti. 4 milioni di tonnellate passano ogni giorno per i 5 elevatori del Columbia Grain Terminal. Gli impianti scaricano il 75% del grano su automotrici. Il deposito, che ha una capacità di 100.000 tonnellate, viene svuotato e riempito almeno 5 volte al mese. Due nastri trasportatori spostano 900 tonnellate di grano all'ora dai silos alle navi carico. Ma questo nutriente principale non è presente in tutto il mondo. L'uso del grano nell'alimentazione cominciò più di 16.000 anni fa, nell'Asia Minore, in una zona nota come la Mezzaluna Fertile, gli odierni Siria ed Iraq. Le popolazioni nomadi raccoglievano il farro spontaneo, separavano i chicchi e li mangiavano crudi. Intorno al 7000 a.C. scoprirono che piantare il grano garantiva una produzione copiosa e con la semina del grano furono gettati i primi semi della civilizzazione. Ancora Bob Bowden. I popoli non furono più costretti ad emigrare alla ricerca di campi di grano. La nostra civiltà è iniziata con la comparsa di agricoltori a tempo pieno. Intorno al 5000 a.C. la coltivazione del grano si è diffusa in Asia, Europa e in Nord Africa. Presto gli agricoltori cominciarono a macinare e cuocere i chicchi. I fattori crearono il porridge. E molti attribuiscono l'origine della panificazione a un evento del tutto fortuito. Qualcuno lasciò del porridge al sole. È un metodo primitivo, ma sperimentato ed efficace. Sempre per caso, la polvere di lievito portata dall'aria giunse a un antico impasto di grano, creando il pane lievitato. Il resto è una golosa storia. Oggi più del 70% del grano coltivato viene usato per fare il pane. Che si tratti di baguette, ciabatta o pagnotta, il cibo vitale è impastato con il grano. E così è la pasta. Ma se non è stato Marco Polo a introdurla in Italia, chi è stato? Tra i cereali usati per scopi alimentari, il grano fa la parte del protagonista. Si trova in più di 3.000 alimenti. Ma prima che questi prodotti arrivino allo scaffale del supermarket, il grano compie un viaggio ad alta tecnologia dal campo alla farina. I mulini Conagra di Decatur, Alabama, macinano più di 7.200 tonnellate di farina al giorno. Ogni bushel contiene migliaia di chicchi o cariossidi. Ogni cariosside è formata da tre parti, il guscio esterno o crusca, ricca di fibre, l'embrione o germe, ricco di proteine, e il tessuto nutritivo detto endosperma, ricco di amido. La farina integrale è ricavata dall'intera cariosside, mentre la farina bianca è formata solo dall'endosperma. Scott Martin, direttore mulino. Da 45 kg di grano ricaviamo 35 kg di farina raffinata, 10 kg di scarti di macinazione che contengono la crusca e 900 g di germe di grano. Il processo comincia con una rigorosa pulizia per rimuovere lo sporco dai chicchi. In seguito, i chicchi entrano in una delle 28 macine. Ancora Scott Martin. Ogni macina ha uno scopo leggermente diverso. Il grosso entra dall'alto, scende sulla mola, viene macinato e si accumula sul fondo. Le macine frantumano i chicchi, li aprono e li preparano al setaccio. Una serie complessa di tubi pressurizzati porta il grano da piano a piano. Mentre le macchine girano, i setacci separano il macinato per grandezza. Le particelle più grandi rimangono in cima, mentre le più piccole cadono sul fondo. Ancora Scott Martin. Le particelle grossolane di crusca finiscono nei rulli trituranti, dove vengono sminuzzate da rulli dentati. E l'endosperma, fatto di fini particelle bianche, finisce nei rulli di riduzione che sono lisci e viene trasformato in farina. Il chicco passa attraverso questi rulli e viene macinato 15 volte in 20 minuti prima di venire impacchettato come farina. Sebbene questo processo meccanizzato sia nato centinaia di anni fa, la Conagra è un impianto davvero all'avanguardia. Sia che si tratti di integrale, bianca o fior di farina, scegliere la farina giusta per i prodotti da forno è essenziale. La farina può essere ricavata da due tipi di grano, duro o tenero. Infatti, il segreto dei panettieri per ottenere un prodotto superiore è nel glutine, una proteina che si forma quando la farina viene impastata con acqua. Il glutine dà al pane volume e consistenza. È la componente chiave del grano che rende l'impasto elastico e lo tiene insieme dopo la cottura. Il grano duro contiene molto glutine. Il grano tenero è povero di glutine, per cui il prodotto non è molto elastico, si sbriciola ed è morbido. Ma occorre un grano speciale per produrre il piatto principe della cucina italiana, il durum. È una varietà di grano duro di qualità speciale usato per la pasta. Gli americani consumano più di 2.700.000 tonnellate di pasta all'anno. New World Pasta è l'azienda più importante tra i produttori degli Stati Uniti. Nei loro impianti di Winchester, in Virginia, producono a ciclo continuo tutti i tipi di pasta. Jeff Shriver, direttore dello stabilimento New World Pasta. Produciamo più di 270 tonnellate di pasta al giorno, che sono 90.000 tonnellate all'anno. Produciamo molte marche di pasta, comprese quelle più popolari negli Stati Uniti. Vi sono varie linee di produzione che lavorano 52 forme differenti di pasta. Il processo comincia con la farina di semola, si aggiunge acqua e si mescola. La fase di mescolatura dura dai 15 ai 20 minuti. La farina di semola è l'endosperma del grano durum macinato grossolanamente. Ai sensi delle leggi italiane, la pasta deve essere prodotta con il 100% di semola di grano durum e acqua. Anche se negli Stati Uniti la legislazione non è così rigida, la produzione della New World Pasta aderisce ai rigidi principi italiani. Lame affilatissime ruotano sotto ogni stampo, tagliando la pasta nella lunghezza voluta. Una volta tagliata, la pasta viene diretta a giganteschi essiccatoi, in cui l'aria calda circola su 13 tonnellate di prodotto alla volta. Il reparto confezioni è un moderno labirinto di sistemi di trasporto, cucchiaie e scivoli, carichi di spaghetti, penne e fusilli. Il lungo viaggio del grano fino alle nostre tavole in forma di pasta comincia nel 2000 avanti Cristo. Ma l'origine della pasta affonda nel mistero e nel mito. Contrariamente all'opinione popolare, non fu Marco Polo a importarla in Italia. Molti storici concordano che sia stata introdotta in Italia durante la conquista araba della Sicilia nell'VIII secolo. Oggi esistono 600 tipi di pasta nel mondo. Gli americani consumano in media 9 kg di pasta a testa all'anno, solo un terzo del consumo pro capite degli italiani. Preparare la pasta è semplice come far bollire l'acqua, ma per farla nel modo giusto ci vuole una certa esperienza. Radio Doc. Proseguiamo con la seconda parte del radiodocumentario dedicato alla filiera del grano. Dai campi alle nostre tavole, il grano non serve a produrre solo la pasta, ma viene utilizzato anche per ottenere la birra. La birra. Centinaia di miliardi di bottiglie vengono venduti ogni anno in tutto il mondo. Gli americani da soli bevono 56 milioni di litri al giorno. L'orzo è il cereale più usato nella produzione della birra. Ma alla birreria dei fratelli Widmer a Portland, Oregon, si usa il grano. Dal 1986 è la prima produttrice in America dell'originale Hefeweizen, la birra di grano non filtrata. è una birra divenuta popolare nel XV secolo in Baviera e che costituisce un quarto delle vendite di birra in Germania. Il sapore unico della birra di grano ha subito preso piede in America. Kurt Widmer, titolare birreria Fratelli Widmer. È ottima. Il grano assicura un peculiare fresco aromatico retrogusto di pane che troviamo molto accattivante. È molto presente al palato. La birra è più sostanziosa e si sente in bocca. Ogni settimana i fratelli Kurt e Rob Widmer trasformano 34 tonnellate di grano in 473.000 litri di birra. Alla base del processo c'è la conversione degli zuccheri del grano in alcol e anidride carbonica. Il malto di grano viene immerso in acqua calda al punto della germinazione, il che causa la produzione di enzimi che trasformano l'amido in zuccheri. Anche se questa birra è di tipo Hefeweizen, i Widmer usano malto di grano per metà della mistura. L'infuso viene mescolato per un'ora a 52 gradi centigradi. La mistura viene pompata in un miscelatore speciale, nel quale la soluzione di acqua e zucchero, detta mosto di malto, viene spremuta dalla mistura stessa in un filtro. Un setaccio meccanico rotante garantisce che la mistura rimanga fluida durante il processo. Gli scarti di lavorazione vengono trasformati da un'azienda agricola in cibo per animali, mentre il liquido viene fatto bollire. Il luppolo è una pianta che dona alla birra amarezza, aroma e sapore. La birra di grano contiene basse quantità di luppolo e un'alta concentrazione di anidride carbonica, perciò ha un sapore delicato e molte bollicine che la rendono la bevanda ideale per l'estate. Ma da cosa viene il suo intenso colore dorato? Ancora Kurt Widmer. Le proteine che si estraggono dal grano si spargono in modo uniforme in tutto il liquido e conferiscono alla birra le sue caratteristiche. Poiché la Hefeweizen non è filtrata, le proteine del grano rimangono in sospensione nel prodotto finito. Queste lunghe catene molecolari si spezzano difficilmente e creano il tipico aspetto torbido e l'inconfondibile spessa schiuma della birra. Il risultato è che una bottiglia di Hefeweizen offre la stessa quantità di proteine e carboidrati di una fetta di pane. Ma nel XVI secolo in Germania il grano venne considerato troppo prezioso per ricavarne birra e la produzione fu sospesa. La produzione di birra di grano in Germania riprese solo nel XX secolo. La birreria dei fratelli Widmer è attrezzata con 6 serbatoi di fermentazione alti 15 metri, della capacità di 1500 barili. Qui la tradizione incontra la tecnologia. Rob Widmer, titolare birreria Fratelli Widmer. Due robot sollevano i contenitori al posto della manodopera umana per consentire un'operazione unica. La nostra birra di grano non è filtrata e i contenitori vengono capovolti perché quando il gestore del locale li rigira nel verso giusto, il liquido si mescola mantenendosi torbido e senza depositi. Che sia in forma solida o liquida, gli americani consumano in media 60 kg di grano all'anno. Con la crescita della popolazione mondiale, anche la domanda di grano non può che crescere. Ma alcuni esperti temono che questo fragile cereale possa estinguersi in pochi anni. Questi scienziati studiano il grano per impedire una simile eventualità. Negli ultimi 100 anni, la popolazione mondiale è quadruplicata, arrivando a 6 miliardi e mezzo di individui. Miliardi di persone soffrono la fame, e centinaia di milioni rischiano la vita. Il grano è stato vitale in tempi di carestia, epidemie e guerre. Ma il futuro di questo prezioso cereale è a rischio. Mutazioni climatiche, insetti e funghi minacciano in tutto il mondo la sopravvivenza del grano e una perdita cospicua delle riserve avrebbe un effetto devastante sulle risorse alimentari globali. Il cibo vitale del mondo potrebbe essere in pericolo. Nel marzo 2008, una virulenta ondata di ruggine del culmo, detta UG-99, apparve in Africa e si diffuse fino all'Iran, distruggendo coltivazioni vastissime. Al centro di ricerca genetica sul genoma del grano all'Università Statale del Kansas, gli scienziati sperano che la chiave dell'immunizzazione si trovi negli antenati del grano. Nella loro banca del gene, dedicata unicamente al grano, vengono mantenute in osservazione 2500 linee di questa pianta. John Rope, botanico Università del Kansas. Abbiamo effettuato numerosi screening per la resistenza alla ruggine su almeno 500 linee. Alcune si sono rivelate molto resistenti, altre vulnerabili alla malattia. Senza un campione di studio molto ampio, non si possono individuare le caratteristiche di resistenza da trasferire al grano. Con le ultime scoperte in botanica, gli esperti sperano di creare un grano resistente alle intemperie. La AgriPro porta avanti il più vasto programma di miglioramento genetico del grano in Nord America. Nella loro sede di Junction City, in Kansas, vengono effettuati incroci in serra tra varie specie. Il grano è una pianta autoimpollinante. In ogni sua infiorescenza si trova un sacco embrionale, uno stimma e delle antere che contengono polline. Quando l'infiorescenza matura, le antere si aprono e rilasciano il polline, che si attacca allo stimma e germina all'interno del sacco embrionale per impollinare la pianta. L'embrione fertilizzato finisce per diventare un nuovo chicco di grano. Dopo aver meticolosamente rimosso ogni minuscola antera, i ricercatori possono incrociare le piante con altre specie di grano, con qualità superiori, come resistenza alle malattie, raccolto più copioso e tempo di crescita ridotto. Il viaggio verso il mercato richiede 10 o 12 anni di esperimenti. Ogni anno i tecnici dell'AgriPro piantano le varietà sperimentali in uno dei loro terreni di coltura da 1,5 metri per 3 metri. Dopo il raccolto, solo il grano migliore viene tenuto e piantato alla stagione successiva. Oggi la AgriPro offre agli agricoltori 40 varietà di grano. Sebbene creare una nuova varietà costi in media 1,2 milioni di dollari, la AgriPro vende ogni anno 9 milioni di sacchi di sementi da 22 kg negli Stati Uniti e in Canada. Ma forse il risultato più eclatante nella genetica agraria va fatto risalire agli anni 60, quando l'agronomo americano Norman Borlaug sviluppò e introdusse nuove varietà di grano in Messico, India e Pakistan. Il grano corto a spiga ricca ha salvato milioni di persone dalla morte per fame. Ai giorni nostri, il grano sta affrontando un'altra fase di cambiamento grazie a una risorsa inaspettata, il mais. Chiamata coltura veloce, il processo richiede la metà del tempo dei metodi tradizionali. John Rich, assistente botanico AgriPro. In sostanza si incrocia una pianta di grano con una pianta di mais. Facendo ciò si ottiene un embrione vitale. Sviluppandosi, l'embrione riconosce i cromosomi del mais come differenti. Le cellule della pianta del grano possiedono un gran numero di enzimi che attaccano e distruggono i cromosomi del mais. Perciò si ottiene quello che viene chiamata una semente aploide. Aploide significa che l'embrione del grano possiede solo una serie di cromosomi. I tecnici la raddoppiano attraverso una reazione chimica e creano così un embrione di puro grano. Ogni chicco della pianta clonata è geneticamente uguale agli altri. Con queste metodologie, gli scienziati puntano a un futuro migliore per questo alimento vitale. Bob Bowden, agronomo del grano. I botanici saranno in grado di creare un grano che produca spighe molto più ricche e che sia inattaccabile dagli assalti degli eventi atmosferici o biologici. Mentre molti ricercatori puntano al supergrano, una società spera che il cereale d'oro possa essere la risorsa per salvare milioni di alberi. La Wheatware ricava prodotti dall'intera pianta del grano. I manufatti si ottengono con la bioresina, un materiale similplastico ricavato dagli zuccheri della pianta, che può essere modellato in migliaia di forme. Warren Kirsch, Wheatware. Questa tecnologia è diversa dall'estrusione della plastica per iniezione. L'estrusione per iniezione consente di trasformare ad alte temperature le particelle di plastica in liquido e comprimerle in uno stampo. Con il grano la procedura è simile alla panificazione. Facendo il pane, se la temperatura è troppo alta, l'impasto si brucia e si solidifica. Il procedimento è molto specifico. La Wheatware mantiene strettamente segreta questa specificità. Oltre ai loro strumenti musicali, l'azienda offre prodotti per il golf, utensili da cucina, pettini, grucce per abiti e bastoncini per cibo cinese. Ancora Warren Kirsch. Abbiamo prodotto bastoncini dopo aver letto le statistiche. 25 milioni di alberi vengono tagliati ogni anno per produrre bastoncini usa e getta in legno. In Giappone si usano 65 milioni di bastoncini al giorno. Quando abbiamo realizzato un articolo resistente al calore, forte, durevole e rigido, le qualità giuste per questo utensile, siamo stati subissati di richieste. Prodotti di questo tipo possono essere ricavati anche da altri cereali, come il grano turco, ma il grano consente maggiore durata e resistenza. Questa risorsa rinnovabile si biodegrada in meno di 90 giorni. Così i tea usati nel golf si trasformano in fertilizzanti. Se non amate il golf, vi piacerà il primo yo-yo ecologico del mondo. L'azienda realizza molti diversi prodotti, ma vi sono altri insospettabili utilizzi del grano. Le parti non commestibili del grano, pula e stoppie, costituiscono la metà esatta dell'intera pianta. Molti fattori le usano come cibo e lettiera per gli animali. Si possono trasformare in sabbia per gatti, sapone e imbottitura per cuscini. Ma uno dei più antichi utilizzi della paglia è per la fabbricazione di mattoni. Infatti, i primi agricoltori della Mezzaluna Fertile usarono i prodotti dei campi per costruire intere città. I mattoni ricavati da una mistura di paglia, argilla e acqua sono estremamente resistenti. Compaiono per la prima volta in costruzioni datate 2000 anni fa. Sebbene la paglia costituisca solo un sesto del mattone, è il materiale elegante. Senza la resistenza della paglia di grano, il mattone si sbriciolerebbe. Il grano costruisce le case, spegne la sete, sazia le famiglie. Ma in ogni caso, il suo destino dipende dall'esercito di 700 mietitori a Cottimo che compie la corsa alla mietitura lunga 4 mesi dal Texas al Canada. È una responsabilità che il mietitore a Cottimo, Ron Meisner, ha accettato di buon grado 37 anni fa. È un lavoro molto duro. Ho visto molta gente venire e altrettanta andarsene. Io farò questo lavoro fino alla morte e sarà difficile seppellirmi in un cimitero, perché come bara io voglio una mietitrebbia. I collaboratori di Ron Meisner ingaggiano con lui una lotta contro il tempo e le condizioni meteo, e la posta in gioco è un raccolto d'oro. Prima di chiudere, vi segnaliamo che la versione integrale del radiodocumentario che avete appena ascoltato andrà in onda su History Channel lunedì 14 settembre alle 6. Un ringraziamento in redazione a Vittoria Mussini. Radio Doc vi dà appuntamento a domenica prossima. Buonanotte.